Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini. Parte prima. I sotterranei sono un dedalo di budelle illuminati ogni 20-30 metri da tubi al neon, polverosi, appesi a lunghi fili elettrici sbrindellati, che pendono dal soffitto di cemento grezzo del sotterraneo, spaccato da fenditure profonde e lunghe che non si vede la fine, e in qualche punto si abbassa gonfiato verso il basso come spinto da un peso enorme che sopra la schiaccia, curvandolo, sfondandolo, e ogni 4-5 metri puntelli di grosse travi lo sostengono. Il legno è marcio, ammuffito, il suolo è coperto da un sottile velo d'acqua marcia. L'odore dolciastro e nauseante di carogna d'animale si mescola all'odore della muffa. Ogni tanto a una biforcazione o a un incrocio di due budelli ci sono mucchi di sabbia, di cemento, bagnati, franati, calpestati, pale e altri attrezzi arrugginiti, abbandonati. L'aria è umida e dalla bocca escono piccole nuvole di vapore quando si respira quell'aria nauseante. Lo scalpiccio disordinato del piccolo corteo muto si mescola al tintinnare continuo delle catene, rimbomba quando si attraversano le passerelle di legno fradicio. Le ombre si allungano dietro i passi, quando si avvicinano alle zone illuminate dai neon, scompaiono e subito riappaiono davanti e si allungano i passi, avanzano lenti, facendo attenzione a dove si mettono i piedi e alle catene per non tirarle troppo davanti o dietro, cercando di lasciare sempre la stessa distanza con chi sta davanti o con chi sta dietro, facendo attenzione a non strisciare la spalla destra sulla parete viscida, bagnata, e evitare a sinistra le canne dei mitra puntati orizzontalmente, mentre il piccolo corteo gira più volte a sinistra e a destra, fino a perdere del tutto l'orientamento. Poi saliamo su una scala stretta, semibuia, soffocante, con lunghe rampe, alti gradini, faticosi strappi alle catene, che fanno male ai polsi e alla fine dell'ultima rampa la luce di una piccola porta e sbuchiamo fuori in alto, in cima a una gradinata spalancata su un'enorme sala molto illuminata, piena di gente che si muove giù in basso, sotto di noi. Sento improvvisamente contro le gambe un muso che ringhia, minaccioso, le pupille nere dilatate, i grandi occhi sporgenti, due lunghi denti bianchissimi, le labbra rosse, contratte, rovesciate, un grosso cane gigantesco, il pelo lucido, nero, rizzato sulla schiena che si incurva tesa, le orecchie dritte mosse da un tremito continuo, il carabiniere che lo tiene al guinzaglio è impassibile nella sua tuta blindata antiterrorismo ultimo modello. Dal punto in cui siamo la gradinata scende ripida fino al pavimento della sala e da lì salgono tutti intorno fino al soffitto, spesse sbarre cilindriche di ferro, verniciate di grigio metallizzato. L'enorme gabbia è piena di carabinieri, in tuta blindata, grigia, metallizzata, sopra, sotto, di fianco, con altri grandi cani neri, ringhianti e nervosi. A uno i carabinieri ci sfilano la catena, ci tolgono i ceppi dai polsi rossi che fanno male, ci arrivano in faccia le vampate di luce accecante dei flash dei fotografi, cani anche questi, anzi sciacalli, e si contorcono, si piegano, si alzano sulle punte dei piedi, un balletto affannoso, alzando le braccia, tirandole ancora più su, con le maniche delle giacche che si accorciano sui gomiti ancora più su. Ci freghiamo i polsi rossi, accendiamo le sigarette, camminiamo un po' su e giù per la gradinata, salutiamo qualche parente, Salutiamo qualche parente, ci sediamo due o tre vicini, scambiando qualche frase a bassa voce. I fotografi in basso si piegano sulle ginocchia, spostano di scatto il tronco a destra e a sinistra, come contorsionisti del circo. Si protendono verso le bestie dentro le gabbie. Tentano di infilare la testa di traverso fra le sbarre, infilando i lunghi obiettivi fra le gambe e le braccia dei carabinieri, che formano una barriera immobile. Agitano le dita isteriche, fanno banzolare le macchine e scattano e sparano lampi abbaglianti contro le facce nella gabbia. Poi, in un angolo lontano, si accende una luce ancora più abbagliante e comincia il ronzio delle telecamere. Mi siedo sul gradino più in alto della gradinata e giù in fondo vedo gli avvocati con le mantelline nere distrattamente buttate sulle spalle, che confabulano tra loro calmi a gruppetti. Tra i banchi di legno, scrostati sulla destra parallela alla gabbia, è schierata la corte con il presidente arcigno e pensoso, seduto in mezzo lo schienale altissimo che gli arriva un bel pezzo sopra la testa. Poi il giudice all'atere, stravaccato di traverso, su un'altra sedia altissima, e a destra e a sinistra i giurati popolari, uomini e donne, quasi tutti con la faccia nascosta dietro occhiali larghi e scuri, le larghe fasce tricolori che attraversano i golfini pallidi, le camicette gonfie, con i colletti inamidati, le giacche doppio petto in diverse tonalità di grigio, le cravatte verdastre, bluastre o giallastre, e in fondo a destra c'è il palchetto solitario del pubblico ministero. Sopra le teste della corte, milioni di tessere compongono un enorme mosaico impolverato e sbiadito che arriva fino al soffitto e rappresenta una scena confusa, una battaglia furiosa. Dalla parte sinistra ci sono le forze del male, rappresentate da strani esseri contorti, mostruosi, aggrovigliati, soprattutto di colore verde e viola. E dalla parte destra le forze del bene, angeliche, trasparenti, armoniose, azzurre e leggere, che si scontrano al centro di una battaglia furiosa, ma le forze del male sono già chiaramente sconfitte e battono in ritirata, incalzato dalle implacabili forze del bene in basso, in un ovale dorato. Campeggia la figura imponente della giustizia bendata, che regge in una mano lo spadone e nell'altra la bilancia. Un po' più sotto la scritta in rilievo: la legge è uguale per tutti, c'è scritto. Sulla sinistra, dietro lo sbarramento dei carabinieri, ci sono le transenne di legno, dietro le transenne c'è lo spazio per il pubblico, ma il pubblico non c'è, lo spazio per il pubblico è quasi completamente vuoto, salve qualche parente, madre, padre, sorella, fratello, cugino, zia, cognata, nessun amico, nessun compagno, perché tutti hanno paura. Perché visto da fuori il tribunale si presenta con una scenografia da guerra, transenne metalliche e fili spinati, cordoni di polizia e carabinieri, un susseguirsi di sbarramenti e mezzi blindati disposti nei punti strategici, mentre altri mezzi blindati girano continuamente intorno al palazzo, e poi cani e metal detector all'entrata. E perquisizioni, interrogatori, schedature, minacce, avvertimenti, insinuazioni e tutto il resto. La piccola porta alle nostre spalle si apre un'altra volta e in mezzo a un altro nugolo di carabinieri appaiono in cima alla gradinata le donne, anche loro incatenate e con i ceppi. Tutti ci alziamo avvicinandoci. La gabbia si riempie di grida, di saluti, di sorrisi e di profumi diversi. Si sono messe tutte vestite coloratissimi, gonne lunghe, camicie colorate, foulard colorati, gli anelli alle dita, collane, catenine, spille, braccialetti, ciondoli ai polsi, grandi orecchini bizzarri, fermagli tra i capelli. Nella confusione i carabinieri si agitano, urlano ordini, i cani ringhiano. Minacciosi, riesplodono le vampate dei flash dei fotografi. I giornalisti prendono frenetici appunti sui taccuini. I pochi parenti si sbracciano, gridano saluti dietro le transenne e rispondono altre grida e saluti. A una i carabinieri sfilano la catena e tolgono i ceppi. Le ragazze corrono verso di noi, corriamo verso di loro sulla gradinata, ci ingarbugliamo, ci intrecciamo, ci avviluppiamo in un mosaico di abbracci, di strette, di baci, di voci. L'unica cosa che ci interessa adesso è poterci parlare, parlare di tante cose, parlare di tutto finalmente, parlare, parlare il più a lungo possibile e poterci toccare, sentire tra uomini e donne. Tutto scompare intorno. L'aula, i carabinieri, i fotografi, i cani, i giudici, tutto quello che c'è al di là delle sbarre ci è estraneo, non esiste. Si intrecciano i regali, amuleti, piccoli oggetti, tutto quello che è stato possibile portare fin lì, dentro la gabbia. Ci scambiamo anche i vestiti, le camicie, i maglioni, i foulard, le sciarpe. Squilli di un campanello che viene dal banco della corte e il presidente comincia a leggere arcigno il lungo elenco dei capi di imputazione. Questo, quello, imputato di e così, per avere e qui e là, questo, quello, imputato di e così, per avere e qui e là, questo, quello, imputato di e qui e là, per avere e così, e in concorso con legge, con un tono di voce uniforme, in modo sbrigativo, tirato via. Questo, quello imputato di e così per avere qui e là, tira via, si mangia le parole dalla fretta. Questo, quello, banda armata, associazione e qui e là, non si riesce a seguire niente, finisce in fretta e poi vengono i preliminari e gli avvocati, senza nessuna convinzione, per pura formalità, presentano le solite inutili eccezioni. E quindi sospensione della seduta e ritiro della corte per decidere delle eccezioni della difesa. E pochi minuti e sono già di ritorno. E altri squilli per dire che ovviamente tutte le eccezioni della difesa sono respinte. E altri squilli e si dichiara aperto, il presidente dichiara aperto il dibattimento. È arrivato il giorno stabilito e la mattina presto, prima che aprano i cancelli, avevamo attaccato un grande manifesto che annunciava l'assemblea e invitava tutti a partecipare. L'assemblea si prende e non si chiede, c'era scritto in grande. E sotto Gelso aveva aggiunto, e anche tutto il resto, di cui abbiamo bisogno. Il preside Mastino arriva come al solito per primo e si mette a leggere il manifesto, poi gonfia la mascella e ci guarda da cattivo. Ci fissa uno per uno, dire prendo nota e poi vi sistemo voi. Poi arrivano i professori che leggono e non commentano, si limitano a guardarci come dei pazzi. Dopo qualche minuto esce fuori una schiera di bidelli che Mastino gli aveva dato l'ordine di strappare via i manifesti. Il più coraggioso, che era anche il più stupido dei bidelli, alza un braccio per staccare il manifesto, ma Cocco gli arriva davanti, infuriato, con le braccia alzate, col suo pastrano lungo e nero, con la fodera color cardinale. E gli lancia un urlo. Il bidello si ferma impressionato e intanto anche noi ci facciamo avanti. I bidelli non sanno più cosa fare. Guardano su verso Mastino, che li guarda giù dalla finestra della presidenza, però alla fine decidono di tornarsene dentro, perché capiscono che se insistono finisce a botte. I primi studenti che arrivano hanno visto la scena, si mettono a discutere con noi e non entrano. E piano piano il gruppo si ingrossa. Allora Mastino pensa bene di intervenire direttamente e esce sotto il porticato per farsi vedere che è lì e comincia a passeggiare su e giù. Mi sembrava di vedere il padrone che passeggia davanti alla fabbrica, in quelle storie che avevo letto sulle prime lotte operaie, sui primi scioperi, lo stesso metodo di intimidazione. E infatti gli studenti prendono paura. Qualcuno comincia a dire che vuole entrare, tirano fuori mille scuse, che noi facciamo di tutto per spiegargli che se stiamo fuori tutti, Mastino non può farci niente, non può sospenderci tutti. Ma c'è troppa indecisione e troppa paura. E un primo gruppetto con la testa bassa comincia a entrare. È come un segnale generale. Anche tutti gli altri si precipitano dentro in pochi minuti. Sono dentro quasi tutti. Restano fuori solo una ventina, più noi sei, e anche Mastino rientra e sogghigna soddisfatto. Noi abbiamo le pive nel sacco. Malva è sconvolta, ma Cocco non molla. Entriamo e la facciamo lo stesso. In quanti siamo? Dice. Dobbiamo farla lo stesso, tanto ormai non abbiamo più niente da perdere, grida. E così convinciamo gli altri a fare lo stesso, l'assemblea. Entriamo tutti insieme e ci mettiamo in un'aula vuota del pianterreno. È un minuto che siamo dentro e non abbiamo ancora cominciato a dire una parola, che arriva Mastino, sbraitando. Cosa fate qui? Tu e tu, siete tutti quanti sospesi. Passate in presidenza uno alla volta e esce, lasciando la porta aperta. Scilla dà un calcio alla porta, poi la barrica. Ci spingiamo davanti due banchi. Restiamo un momento in silenzio. Dobbiamo fare qualcosa. Ci guardiamo negli occhi, ma non sappiamo cosa fare. Ci sentiamo in trappola. Poi è un lampo e mi vedo davanti agli occhi la pagina di un opuscolo che avevo letto quest'estate sulle forme di lotta nelle fabbriche e tutte queste cose. Mi vedo lì davanti agli occhi quella pagina con il titolo in eretto, Corteo interno, e dico, Corteo interno. Dobbiamo fare un corteo interno. Che cosa dicono gli altri? Sì, un corteo interno. Entriamo in tutte le aule e facciamo uscire tutti. Almeno ci proviamo, cominciamo dalla prima e le facciamo passare tutte. Tutti sono d'accordo, usciamo fuori e facciamo un piccolo corteo nel corridoio e arriviamo davanti alla prima aula. La lezione è già cominciata, noi facciamo irruzione, entriamo tutti insieme nell'aula in silenzio. Il professore, noto ruffiano di Mastino, si spaventa e non fiata. Tutti gli studenti sono voltati verso la porta. Valeriana è decisa quando parla, è sicura, nervosa, ma chiara, ha un tono di voce alto e scandisce bene, dice il preside ci ha sospesi, noi tutti, perché volevamo fare un'assemblea senza il suo permesso. Tutti lo sapevano, lo sapevate anche voi tutti, che c'era il programma di fare questa assemblea. Sono 15 giorni che ne discutiamo, oggi siete entrati per paura, però se avete paura oggi, avrete paura anche domani, e sempre e non potremo mai decidere da soli i nostri problemi. Allora dovete muovervi adesso, subito. Noi dobbiamo fare tutti subito l'assemblea per dimostrare che in questa scuola non siamo degli schiavi. La dobbiamo fare per fare quello che fanno in tutte le altre scuole, per dimostrare che siamo noi a decidere, perché la scuola è nostra e non è di Mastino. Cocco e Scilla guardano minacciosi il professore, come per dirgli non azzardarti a aprire bocca, tu e quello. Infatti se ne sta lì, zitto. Da alcuni banchi qualcuno si alza e partono i primi commenti. Giusto, usciamo tutti. Sì, andiamo a fare il giro delle classi. Mastino arriva dall'altra parte del corridoio e si trova contro il corteo. Si mette a urlare, ma ormai non fa più paura a nessuno. Cocco gli si ferma davanti, dà sul naso assemblea, assemblea. Mastino continua a gridare, rosso di rabbia, e minaccia tutti di sospensione e urla di rientrare in classe, ma il corteo fa irruzione in un'altra classe. La tecnica è di entrare tutti insieme nella classe di colpo. Valeriana fa il discorso a metà, che sono già tutti in piedi, pronti ad uscire. Non c'è più bisogno neanche di parlare. Hanno già capito tutto. Il casino fa uscire tutti anche dalle altre classi. Il corteo si ingrossa, il pianterreno è completamente spazzato. Saliamo in corteo, su per le scale, al primo piano, e entriamo nella prima classe che ci capita. Ormai la gente è tanta che non si riesce a starci tutti. E anche lì tutti gli studenti escono fuori. Subito quelli che premono per entrare si scontrano con quelli che premono per uscire. Non entriamo nemmeno più nelle altre aule. Gli studenti escono da soli, dappertutto, anche al secondo piano ne vediamo che si sporgono dalla ringhiera. Si urla tutti fuori, e saliamo le scale fino al secondo piano. E quando arriviamo nel corridoio sono già tutti fuori, dalle classi, e si uniscono al corteo. Il corteo è fermo, su per le scale, tutti si accalcano su per tutta la lunghezza delle scale. Si sente Mastino che urla qualcosa dal basso, ma non si capisce, non si sente. Cosa dice? C'è un casino incredibile. Poi ci sporgiamo e vediamo Mastino giù al pian terreno in mezzo alla tromba delle scale che si mette le mani nei capelli e fa una faccia disperata. Sente solo che urla: La scala, la scala! Da sopra partono delle pallottole di carta che finiscono giù sulla testa di Mastino. Poi dal primo e dal secondo piano cominciano a volare le biro, le gomme, le matite, poi anche i quaderni e i libri, tutti buttano giù qualcosa. Contro Mastino. Che è lì, giù, solo, in mezzo alla tromba delle scale. Non tenta neanche di ripararsi, si tiene le mani tra i capelli, ma non per ripararsi, e continua a urlare: Le scale, le scale! I professori non si vedono, i bidelli sono scomparsi, alcuni professori sono scappati nelle aule vuote e si sono chiusi dentro. Partono uno dietro l'altro i vetri delle aule e si vedono i professori in piedi terrorizzati, con le spalle al muro. Giù sotto Mastino lancia un ultimo grido disperato che riesce a farsi sentire. La scala cede, le urla calano di tono, non tanto per quello che ha detto Mastino, ma perché la gente si è già sfogata abbastanza. Gelso mi guarda da dentro i suoi occhialini rotondi e mi chiede che cazzo urla lo stronzo. E Cocco dice sta bluffando, non sa più cosa fare. Mastino da sotto apre le braccia verso l'alto e implora: Ragazzi, ragazzi, state fermi, la scala non può reggere tutto quel peso. State calmi e scendete in ordine, senza correre. Calmi. Ma quale ordine? Ma sentite. Non smette di dare ordini, quello lì, urla Cocco. Adesso tu ti rimangi tutte le minacce, ti rimangi tutto qui davanti a tutti. Niente più sospensioni e assemblee quando le vogliamo. Si sente un boato di urla, tutti gridano: Assemblea, assemblea. Mastino giù sotto spalanca le braccia e poi le lascia ricadere. E quando riesce a parlare, dice ansimando: Sì, tutto quello che volete, ma venite giù subito, vi supplico, ve lo dico per il vostro bene. Venite giù, scendete piano, non correte, vi prego, non ci saranno sospensioni, potrete fare le vostre assemblee, ma venite giù, vi prego, tutti urlano vittoria, vittoria. Nessuno scende giù, nessuno ci crede alla storia della scala che cede, nessuno ci pensa, nemmeno per un attimo. Gelso si pulisce gli occhiali, soddisfatto, io e Malva ci abbracciamo, felici. E si sente ancora il vocione roco di Cocco che urla: Hai finito di fare il gradasso, adesso, eh? E poi aggiunge: Mastino, sei sospeso per sempre. Passa in presidenza quando ti chiamiamo. Si sente la voce di Valeriana che dice che adesso è meglio andare giù nel cortile a fare l'assemblea, perché è l'unico posto dove possiamo starci tutti. Insieme. E tutti gridano che sono d'accordo, tutti gridano assemblea, assemblea, cortile, cortile, e cominciano a scendere giù. E invece di scendere ordinatamente come voleva Mastino, tutti scendono di corsa, e per di più saltando, battendo forte i piedi per fargli dispetto e spingendosi tutti. Mastino è sempre lì, immobile, con le braccia alzate. La testa in su che grida: No, no, piano, piano! E poi lo sanno tutti com'è andata a finire. In città i circoli giovanili hanno organizzato una festa in Piazza del Duomo. Io e China ci andiamo in treno, da soli. Arriviamo in anticipo all'appuntamento con gli altri nostri compagni. C'è già moltissima gente, la polizia presidia in forze tutto intorno, si fanno scritte sui muri e per terra, lo spazio è un diritto, oppure per la società della festa, oppure riprendiamoci la vita. La polizia comincia a fare pressione per farci sgomberare, c'è qualche tafferuglio, partono un paio di candelotti che non spaventano nessuno, però riescono a prendere un compagno e a manganellarlo. un po'. Andiamo dalla piazza, ma nelle strade intorno cominciamo a sporfidare e riempirci le sacche. Intanto arrivano all'appuntamento grossi gruppi, soprattutto dai quartieri ghetto della periferia. Proviamo a metterci in cordoni e viene fuori un serpentone mica male. Vediamo gli altri del nostro collettivo, sono venuti tutti, stanno a gruppetti, mischiati con gli altri. La testa del corteo parte decisa in direzione della piazza del Duomo, tirando su uno striscione con scritto «Ribellarsi è ora, è carnevale». Lo si vede dai coriandoli e dalle stelle filanti per terra. Famiglie portano a spasso i bambini, mascherati da Zorro, Sandokan e da Corsare Nero. Facciamo il giro intorno alla piazza del Duomo e a quel punto scoppia il casino, perché i carabinieri attaccano la coda del corteo, sparano raffiche di lacrimogene. L'aria si fa subito irrespirabile, tutti hanno gli occhi che piangono, le famiglie vengono prese dal panico, rincorrono il loro Zorro, Sandokan e Corsaro Nero dispersi nel fuggi-fuggi. Io e China ci fermiamo con un gruppo che tira cubetti di porfido e ci troviamo di fianco Corogno, Valeriana e Nocciola. Vediamo i carabinieri partire di corsa per caricare, allora alcuni compagni spostano un po' di macchine di traverso alla strada. Un paio di bottiglie sulle macchine e i carabinieri non si vedono più dietro le fiamme e le nuvole di fumo. 100 metri più avanti c'è un gruppo che se la sta prendendo con una Rolls Royce metallizzata. Bandierate sprangate sulla carrozzeria, sassate contro i vetri e poi anche lì una bottiglia. E l'auto del padrone fa un bel rogo. Giochiamo ancora un po' a inseguirci coi carabinieri per le strade del centro. Alla fine ci disperdiamo e ci ritroviamo tutti alla stazione. Abbiamo tutti gli occhi che bruciano e continuiamo a sfregarci anche se è peggio e in più nel naso l'odore puzzolente dei lacrimogeni. Ci laviamo gli occhi alla fontanella, arriva Malva, inciampata. Era venuta coi tacchi alti, ha battuto il naso e ce l'ha tutto spelacchiato. Gelso, come al solito, gli sono caduti gli occhiali e qualcuno nella confusione glieli ha schiacciati e non ci vede quasi più. Appena ha respirato un sacco di gas, ha la nausea e sta per vomitare. Arriva Ortica, alza la falda del suo impermeabile e ci fa vedere un manganello nero, lungo. Quasi quasi ci portavamo anche qualcos'altro, dice, vero Cocco? Cocco ha trovato per terra un fucile, si erano persi anche un fucile. Dovevate vedere Cocco che correva come uno struzzo con il fucile in mano. Ridevano tutti e applaudivano, ma poi l'abbiamo buttato via. Che ce ne facciamo di un fucile? Un'altra volta, una sera, alla metà di aprile, alla televisione danno la notizia dell'assassinio di un compagno. Un fascista gli ha sparato, aveva 17 anni e subito la reazione spontanea, immediata. La mattina ci ritroviamo tutti sul treno, per la città. Le stesse facce, le stesse scarpe da tennis, i giubbotti, le sacche a tracolla, le sciarpe, i fazzoletti, i guanti, i berretti. I vagoni sono pieni, la gente è in piedi, nei corridoi, nessuno parla e a ogni stazione ne sale dell'altra. Sui muri dei paesi che attraversiamo si vedono le scritte fresche, le stesse parole che si leggono nelle facce silenziose dei compagni. Dalle ultime stazioni della periferia sale una marea di gente che si pigia nelle piattaforme. Portano sacchetti di plastica con dentro i caschi e sotto i giubbotti chiavi inglesi, spranghe, tondini di ferro, in tasca fionde, biglie, bulloni. Quando arriviamo, un lungo corteo riempie la banchina e si infila giù per le scale del metrò. Nessuno fa il biglietto, nei vagoni entrano anche le bandiere e le lunghe aste degli striscioni. Qualcuno accenna una canzone, ma il clima è cupo, minaccioso. Si arriva all'università, nella piazza davanti all'università, c'è una marea di gente, ma non solo studenti, non solo giovani, c'è gente di tutte le età, c'è anche gente anziana. Ci sono operai con le tute e i fazzoletti rossi al collo. Il corteo è già lì, schierato, che aspetta di partire. I servizi d'ordine in testa, i fazzoletti legati sotto gli occhi e i grossi bastoni a cui sono legate piccolissime bandiere rosse. C'è un rumoreggiare cupo, poi un urlo e parte uno slogan. Compagno ucciso, sarai vendicato. Tutti insieme, un boato e il corteo parte. Davanti al palazzo di giustizia, davanti alle scalinate, c'è uno schieramento di celerini in assetto di guerra, con i lacrimogeni infilati in cima ai fucili e le visiere dei caschi abbassate. Il corteo si forma di colpo e partono slogan contro i poliziotti. La tensione sale a mille, il corteo riparte e poi si ferma di nuovo. In piazza vedo un vecchietto con un fazzoletto rosso intorno al collo, che viene issato sul basamento dell'obelisco che c'è in mezzo alla piazza e che si porta la tromba alle labbra e che suona il silenzio e si fa subito un silenzio pauroso. Si sentono solo gli acuti della tromba. Quando la tromba finisce c'è un urlo enorme. Dappertutto si alzano migliaia di braccia, tutte armate di chiavi inglesi e di spranghe. Tutti i negozi delle strade che attraversiamo sono chiusi, le saracinesche sono tutte abbassate, improvvisamente a un certo punto tutti si infilano i caschi. Vedo apparire cordone per cordone una distesa di caschi colorati, come un mare di biglie, colorate, bianche, rosse, blu, verdi, nere. Il corteo si ferma nel viale all'altezza di una traversale. Lì davanti, dopo pochi metri nella traversale, c'è uno sbarramento, auto, jeep, gipponi, cellulari della polizia e dei carabinieri che proteggono la sede dei fascisti, che è pochi metri dietro lo sbarramento. La testa del corteo, col servizio d'ordine, si ferma pochi metri davanti. Le chiavi e le spranghe si levano minacciose. Poliziotti e carabinieri serrano le file e si coprono con gli scudi. Parte una sassaiola che sembra non finire mai. Si sentono i tonfi dei sassi che finiscono contro gli scudi e i caschi dei poliziotti. Volano nell'aria le Molotov a decine, poi salgono le vampate altissime, gialle, rosse, azzurre. Formano un muro altissimo di fiamme davanti a noi. Alcune jeep hanno preso fuoco. I poliziotti rompono le file, corrono tutti indietro, inciampando, calpestando nella fuga. Altro lancio di Molotov e altre macchine prendono fuoco. Una nuvola di fumo nero. Non si vede più niente. Poi si sentono i botti sordi dei lacrimogeni che ci grandinano addosso. A decine, una pioggia di lacrimogeni che ci piovono da tutte le parti. In un attimo l'aria è irrespirabile. I cordoni del servizio d'ordine indietreggiano e si portano all'imbocco della trasversale. Si fermano all'imbocco. Dietro nel viale il corteo si è sfaldato. Improvvisamente in fondo al viale si sentono acutissime le sirene di una colonna di jeep. Le sirene si avvicinano, sempre più forti. Sento urla dappertutto. Poi d'improvviso tutta la gente corre verso i lati del viale, verso il marciapiede. Improvvisamente nella folla che si apre appare un enorme cippone grigio-verde, lanciato velocissimo, che ci sfiora. Anch'io sto correndo sul marciapiede. Arrivano altri cipponi della colonna. Le sirene vicinissime spaccano i timpani. Partono i sassi e qualche molotov contro i cipponi che hanno i vetri protetti da grate di ferro. Dalla fiancata di uno si alzano fiamme. Tanti sembrano non finire mai. Dai marciapiedi i compagni continuano a tirare sassi e bottiglie, tirano biglie e bulloni con le fionde. Vedo un gippone zigzagare in mezzo al viale e poi puntare dritto sul marciapiede. La gente si butta contro i muri delle case, si arrampicano sulle grate delle saracinesche dei negozi, sui cornicioni delle finestre, dei primi piani. I gipponi salgono sui marciapiedi e passano rasente ai muri delle case. Ci sfiorano. Io mi arrampico sulla grata di una saracinesca. Tutti tentano di arrampicarsi, ma non c'è posto per tutti. La gente si aggrappa uno all'altro. I gipponi passano sui marciapiedi rasenti i muri delle casse, sfiorandoci. Uno, due, tre. Tengo il fiato e chiudo gli occhi. Qualcuno vicino a me urla terrorizzato. Io resto attaccato alla grata, anche quando la colonna è passata, e vedo l'ultimo gippone che dopo averci sfiorato ha come un sobbalzo e sterza di colpo verso il centro della strada. Sento molte urla, tutte insieme, che vengono dal punto dove il gippone ha sterzato. Urla fortissime, grida. Vedo molti compagni che corrono verso quel punto. Non riesco a vedere niente. C'è fumo e confusione. Tutti hanno gli occhi rossi che piangono per i lacrimogeni. Scendo dalla saracinesca e vado verso quel punto, correndo insieme a altri. Ci scontriamo con altri che vengono in senso opposto. Facce disperate, occhi sbarrati, alcuni abbassano i fazzoletti, uno si mette le mani nei capelli. Non riesco a vedere cosa è successo. C'è un gruppo di compagni fermi a semicerchio, alcuni piangono, non è per i lacrimogeni, alcuni singhiozzano. Una ragazza grida qualcosa che non capisco, poi più in là vedo il corpo insanguinato per terra, vedo la lunga scia di sangue, scuro, e più in là vedo la massa rossiccia del cervello che la ruota del gippone gli ha schizzato fuori dalla testa schiacciata. Libri ribelli. Libri ribelli.